con Felice Della Corte, regista dello spettacolo Il Cappello di Carta, al Teatro Marconi a Roma dall'8 al 18 novembre. Felice, ben trovato. Ben trovato voi, eccomi qua. Ciao a tutti. Ci presenti lo spettacolo? Ma è molto semplice, Il Cappello di Carta è sicuramente uno dei più bei lavori Gianni Clementi. Anche io conosciutissimo come uno dei più, in questo momento uno dei più prolifici autori italiani, romano poi in particolare, ma questo, tanti testi belli di grande successo. Il Cappello di Carta è tra altre cose ambientato in una situazione che è più forte, mi racconta che ha già fatto in altri spettacoli. Sono spaccati di famiglia nel 43, a cavallo del bombardamento del San Lorenzo, per raccontare una famiglia che consiste di interi, gli affetti, gli amori, le speranze, e veramente così, una sorta di affresco familiare che emozione che serve allo stesso tempo. E infatti questo per raccontare gli spettacoli in generale. Sì, dello spettacolo ne sono state fatte varie versioni. Rispetto a questa, su cosa avete puntato? Ah, guarda, lo spettacolo io sono stato ottimissimo quando mi è stata proposta la regia dello spettacolo che aveva visto tantissime versioni. E quindi per me è stato anche un po' una sfida, senza voler travolgere il testo, in maniera semplice, fedelissimo al testo. Che è venuta fuori una persona molto apprezzata dallo stesso autore, tra le altre cose, che l'ha detta ovviamente, che trasforma il tutto in un atto unico, perché originariamente sono due atti, nella durata di un'ora e venti, dove la mia scelta è stata dall'esigenza. È un testo che sicuramente prende emozione al pubblico, e io scelgo di andare a cogliere per sviscere l'emozione delle persone e non morlarla più fino alla fine dello spettacolo. Quindi la caratteristica fondamentale è questa, è una versione con un'ora e venti, ripeto, che rapisce e ti conduce con emozione fino alla fine. Peraltro devo dire aiutato benissimo, adesso mi sembra che qualche però abbiamo parlato con l'autore, mi sembra che abbiamo condotto benissimo gli attori in scena che si sono lasciati guidare da questa, come dire, questa chiave di lettura e fanno una, come dire, e offrono tutte le sere di una presentazione di alto livello. Ecco, si tratta di un lavoro corale, quindi che tipo di lavoro hai fatto rispetto alla scelta del cast e poi come hai lavorato con attori ed attrici? Ma innanzitutto ho scelto ovviamente tutti gli attori e attrici che a cui sembravano giusti le parti, per cui hanno la dimensione e l'età previste. Ho poi scelto tra quelli che ci proponevano e quelli che abbiamo scritto noi, gli attori che sono, adesso non dirò pure perché mi sembra anche più lo livello, che sono Stefano Granieri, Francesco Pannotta, c'è Cristina Cini, Armando Puccio, c'è Marco, oddio il cognome di Marco, adesso lo dirò per un attimo perché che poi è quello che c'è da più tempo, indicando le nostre cose. Pratesi, giustamente, c'è Marco Pratesi, c'è Daniele Locci e c'è Valeria Spada. Sono sette attori che nel momento in cui hanno cominciato a lavorare si sono fatti diventare tutte le dinamiche, perché poi c'è anche la gestione di tante persone in scena, insomma, no? Che sì, si muovono e interagiscono fra di loro. Loro sono stati bravi e ne abbiamo fatto un bel lavoro. Oggi sono praticamente una partitura musicale che si muove sul palcoscenico facendoci sentire, così, e vivere il mondo stesso, ma emozionandoci dall'inizio alla fine. Allora, ricordiamo lo spettacolo Il Cappello di Carta, Gianni Clementi, per la regia di Felice della Corte al Teatro Marconi a Roma dall'8 al 18 novembre. Felice, un in bocca al lupo, un saluto e a risentirci presto. Ovviamente, vi ripeto, io credo di poter dire che venite a vedere lo spettacolo, ne uscirete veramente soddisfatti e anche un po' commossi. Grazie. A presto. A presto.